Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo. Bentornati all'ascolto e diciamo un caro saluto anche da parte della nostra redattrice Gloria Guerrera e del nostro regista Alessandro Chiappini, squadra abituale ormai, che verrà condotta da un ospite molto gradita. Benvenuta Vera Slepoi. Buongiorno. Beh, la professoressa Slepoi è psicologa e psicoterapeuta, diciamo così, anche nel percorso nella provincia di Padova, le vie della politica, perché è stata per qualche anno assessore alla cultura e alle politiche sociali, ma noi la conosciamo anche per i suoi libri. Ricordiamo brevemente Capire i sentimenti, Cara TV, con te non ci sto più, Legami di famiglia, Le ferite delle donne, Le ferite degli uomini, e appena giunto in libreria l'ultimo, L'età dell'incertezza, Capire l'adolescenza per capire i nostri ragazzi, edito da Mondadori. Questo in breve, e poi in realtà una persona così attiva come la signora Slepoi magari meriterebbe una trasmissione a parte, però no, dobbiamo necessariamente così situarci sotto questo cielo che ora lei deve colorare con qualcosa. Da dove partiamo? Sì, una frase che mi ha molto colpito nel corso così del tempo, nel tempo in cui si studia, si riflette, si ha ancora il tempo di farlo, perché leggere e riposizionare la propria visione del mondo, della realtà, ma anche della conoscenza richiede comunque appunto degli spazi possibili. C'è una frase che a me ha colpito nel corso di questi anni, nel dibattito che c'è proprio sulle regole, sulle norme, sulla frustrazione, sulla libertà, usato anche in un carteggio tra Freud e Einstein, ma in particolare in Al di là del principio del piacere. Freud, lo cito perché chiaramente questo è anche il mio mestiere, quindi mi sembra un atto dovuto, parlando della felicità dice: l'umanità rinuncia alla propria felicità in nome della sicurezza. Quindi questo, in tempi in cui si è abusato di questa definizione, questo paradigma della libertà a cui l'uomo auspica, aspira, però poi di fatto deve ridurla dentro la sicurezza del rapporto con gli altri, l'ho trovato abbastanza illuminante. L'utopia che la pulsione ci rende felice, io lo vedo anche nella pratica terapeutica, non riguarda tanto quello che tu puoi fare, l'organizzazione delle tue pulsioni, ma piuttosto la mediazione tra quelle proprio che sono le tue pulsioni, che per l'individuo oggi è difficile avere l'occasione di poterle percepire, perché la verità è che noi spesso ci neghiamo, non ci interpelliamo abbastanza, non riusciamo a stare abbastanza con noi stessi, però poi dobbiamo ridurre, mediare con regole o comunque con quello che è il riconoscimento del rapporto con l'altro, che chiaramente ti impone quello che Freud diceva, una rinuncia di fatto alle tue pulsioni. Poi magari il giurista ha parlato poco fa fuori il microfono, diciamo così, sì. Subito mette in lista 10-15 domande, che va dalla teoria pure del diritto di Hans Kelsen fino alle applicazioni nostre costituzionali, sì. Però io vorrei farle solo una domanda, diciamo così, terribilmente tartufesca nel suo diciamo, moralismo sostanziale. Ma non è che siamo arrivati, diciamo così, a porci così forte il problema della sicurezza, magari pure esagerando, perché poi in realtà abbiamo esagerato con il concetto di libertà? Sicuramente avendo esasperato un elemento, cioè che dentro il poter fare tutto ciò che è possibile ci rende felici, abbiamo poi esasperato l'impossibilità di gestire la norma. Oggi dire no a un bambino per un genitore è un meccanismo complesso, c'è la paura della restituzione di quel no in forma aggressiva, e questo lo possiamo modulare anche sui comportamenti sociali. Quindi no, li evochiamo come necessari, però poi li traduciamo solo in meccanismi di punizione, che poi sono delle soluzioni parziali. Con questo non voglio dire che non siano utili, però non sono l'unica soluzione, cioè nel senso che oggi procediamo per impedimenti, sia in un senso che nell'altro, senza magari entrare all'interno del problema. Cioè la delinquenza è un problema, come lei ben sa, complesso, non è che semplicemente ci ritroviamo nel non rispetto delle regole perché non diamo delle regole, ma perché l'individuo sceglie la via, ad esempio, più semplice, che quello di fare quello che gli dà un risultato immediato. C'è il concetto di fatica, ad esempio, perché è faticoso stare all'interno delle regole, così come è faticoso tener conto degli altri. Quindi nella sicurezza che c'è un po' questa ansia così di relazionarsi con il mondo esterno, quindi l'insicurezza deriva poi dalla paura di non saper controllare gli eventi di fatto, tant'è vero che per molti teorici di queste interpretazioni sociali è proprio la paura uno degli elementi dentro i quali poi nascono i grandi crimini. Se pensiamo, non so, al ragazzo finlandese che va e uccide 10 studenti preparando tutto questo. Questo è una preparazione dentro un'organizzazione della visione del futuro spaventosa, terrifica, per cui la morte o la violenza è una soluzione che tutto sommato, anche se negativa, però ti rassicura. Questo per dire quanto il concetto di sicurezza è una parola evocativa della possibilità di essere protetti, di non rischiare qualche cosa di te o della tua vita, però poi di fatto dietro c'è la paura di vivere. Ecco. Sì, l'ho vista perplessa. No, no, o attento. No, no, stavo riflettendo, perché poi realmente le domande sorgono a cascata, poi sono le domande, diciamo così, da 100 milioni di dollari che ognuno di noi fa, anche perché, diciamo, appartengo, suppongo, a quella generazione, a quella categoria di insicuri che ha generato. Ma anche lì, non avendo, diciamo così, generato figli nella carne, però ha generato almeno due generazioni di ultra liberisti o di ultra aggressivi, certo. Diciamo, per cui in realtà spesso e volentieri mi chiedo pure come così tutti quelli che appartengono alla fascia tra i 50 e i 60 come sono, come vivono e perché siano talmente alternativi a quello che hanno, proprio anche con il senso, diciamo così, proprio molto riduttivo, e questo fa male, di non comprendere quando quelle libertà di cui loro hanno usufruito, poi in realtà, per quello appunto che stanno tra i 50 e i 60, sono stati gli oggetti di tante lotte ideali, insomma, cioè le assemblee disertate oppure a scuola. Sì. Beh, ma lì c'era un'utopia che... Io credo molto nel valore dell'utopia, che non viene più molto formulata. Il problema di quello che lei dice è che probabilmente l'organizzazione di un'idea magica non vuol dire poi la capacità di portarla avanti. Se vogliamo, la rinuncia di quegli anni è stato di continuare una riflessione pacata e non un desiderio di affermare una verità assoluta. Ma non abbiamo forse tutti commesso il grande peccato di svuotare le parole di senso? Perché, anche, per esempio, quando sento problemi relativi alla discussione relativa ai diritti delle coppie omosessuali, dove, per esempio, come qualcuno ha notato ultimamente, si potrebbe partire da ciò che l'ordinamento già permette per poi vedere dov'è, diciamo, che andrebbe amplificato. Invece usiamo la parola matrimonio, la parola famiglia. Non stiamo commettendo, dal punto di vista psicoantropologico, un altro di quei disastri? Cioè consegniamo parole ancora deprivate di senso. Cioè si può essere anche nel nuovo conservando il significato delle parole che abbiamo ricevuto. Sicuramente, però smantellando simbolicamente determinati significati, noi in realtà rinunciamo a quello che Lacan traduceva come il significante, cioè nel senso che continuando a occuparci del senso apparente, quindi dell'estetica della parola, noi non entriamo nel merito del contenuto, tant'è vero che alcuni dibattiti che ci hanno a lungo tenuto nelle prime pagine dei giornali proprio su alcuni temi che lei ha citato, in realtà sono prive di senso, perché poi di fatto la scelta che l'individuo fa personale, sentimentale, non dovrebbe avere bisogno, no, di un ordine istituzionale assoluto. Vuol dire che c'è qualche falso problema, a mio avviso, no? Ma la nostra è un tessuto sociale che bada molto all'esteriorità delle parole, senza entrare nel merito poi dei contenuti, no? Sì, perché poi temo, poi alla fine della prima parte, che dopo aver abbattuto il senso, il significante di parole come famiglia e matrimonio, poi apriremo una discussione su come regolare per legge l'amicizia. Bravo, esattamente questo. Io, ad esempio, per quello che riguarda la parola famiglia, è un'organizzazione sociale, non è un paradigma che è sempre stato parte integrante dell'individuo. Quindi bisognerebbe anche lì entrare nel merito sui significati che hanno anche questi riti, questi miti, queste necessità anche simboliche. Io credo molto che i riti vanno mantenuti perché hanno un'appartenenza con il nostro archetipo junghiano, in questo caso non freudiano. Vera Slepoi, la nostra stimolante guida questa settimana. Beh, della signora Slepoi ci siamo dimenticati di dire che è presidente della Federazione Italiana Psicologi e dell'International Health Observatory. Come si usa fare, diciamo. Poi tanto tanto ci scappa anche Air France, come sentiamo a lunghezza. Sì, sì, di... Sì, c'è di tutto. C'è di tutto in queste nostre pronunce provvisorie, sì. Come il nostro cielo. Da dove ripartiamo, signora? Vuole un'altra riflessione? Sì. Ecco, ne avevo scelta un'altra che era interessante, di Churchill, che dice: a volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi si rialza e continua per la sua strada. Io lo trovavo straordinario questo atteggiamento che l'individuo ha di fronte tutto quello che percepisce, quello che vede, però l'incapacità di possedere proprio l'esperienza, ma anche il coraggio di vedere le cose per quelle che sono, nel senso che credo che l'individuo ha sempre l'idea esatta di come stanno le cose, tant'è vero che io non credo poi che la mente sia così difficile da interpretare, a prescindere dalla decodifica che noi facciamo come terapeuti, che riguarda poi la restituzione all'armonia, alla salute, tra virgolette, mentale, un benessere psicofisico, però il concetto di verità, cioè dove l'individuo la incontra, però poi non sa che cosa farsene, non riesce ad utilizzarla, non riesce a contemplarla e molto spesso fa finta di nulla, è quello che poi viene anche definito nel mondo terapeutico che la rimozione degli eventi emotivi o il ritorno del rimorso, cioè tutto quello che tu non hai saputo vedere, guardare, possedere appunto la verità, ritorna sotto altre forme, come dire, vale sempre la pena guardare le cose per quelle che sono, ma mi sembra un'incapacità del nostro tempo che è molto protesa a crearsi tanti paradigmi di leggerezza che poi non trova nella realtà, di desiderio di vivere la vita per quella che è, che poi non riesce poi di fatto ad ottenere. È una visione appunto così estasiata del mondo che poi l'individuo non sa contemplare nella propria quotidianità. Come dire, siamo molto capaci di capire come dovrebbero andare le cose, ma non siamo poi capaci di praticarle. Ecco, quindi questa frase di Churchill credo che derivi molto anche dalla sua esperienza sull'animo umano. Però nella nostra tradizione letteraria, da penso per esempio all'Eneide di Virgilio, uno dei momenti drammaturgici, quasi la grazia divina, era quando la Glaucopide, mamma, madre di Enea, veniva e stendeva sul figlio il manto del sonno e dell'oblio. E invece lei, diciamo così, ha esaltato poco fa una professione che vuole togliere da tutti noi il manto del sonno e dell'oblio. E allora la poesia dove la mettiamo? No, non è esattamente così. Non è, ecco, devo dire che non sempre quando ci si trova di fronte a una rimozione o comunque alla creazione di una sublimazione, rimozione, tanto per dire un po', di dare un po' di informazioni, sono dei meccanismi di difesa che noi utilizziamo, che è un po' come il corredino in nostro possesso che possiamo utilizzare di fronte all'emergenza, così come la poesia è un'emergenza, è la sublimazione di un'emozione che viene poi trasformata in parola, che ha una sua musicalità e che serve comunque per richiamare un evento emotivo, un sentimento che non riuscendo a trovare spazio talvolta all'interno della tua vita, dei tuoi pensieri, si trasforma appunto in poesia. Quindi non è che la psicanalisi o la psicoterapia nega tutto questo, diciamo che è un po' come l'archeologo, va a rimettere a posto quelle parti che sono state messe male nell'organizzazione dei nostri pensieri, delle nostre emozioni, ma non è poi così. Talvolta noi, pur percependo esattamente quello che l'altro ti sta dicendo, non è detto che venga rivelato, cioè non è che tutto quello che il terapeuta percepisce del mondo dell'altro deve per forza dirlo, e talvolta molte patologie che poi sono delle l'utilizzo di alcuni comportamenti che servono, non so, le fobie o le manie, no? Che sono dei rituali, servono all'individuo per ridurre talvolta l'ansia o l'angoscia di altri eventi che nulla magari hanno a che fare con quella patologia, con quel rituale, con l'estetica di quel rituale. Quindi prima di togliere quel meccanismo patologico ci devi pensare, perché se quel meccanismo patologico è stato comunque utile per rimuovere o per nascondere un grande dolore, una grande ferita, devi fare molta attenzione. Quindi il concetto di togliere quel manto o organizzare la verità nella persona che hai di fronte, bisogna sempre fare molta attenzione, non è che la consapevolezza che l'altro ha delle proprie problematiche lo renda migliore, lo renda felice. Deve essere pronto l'individuo anche per avere in possesso la verità o comunque quella che è stata la storia che ha minato la propria innocenza o le ferite che si sono provocate nel corso della vita di un individuo. Bisogna sempre fare molta attenzione, ti devi sempre chiedere qual è poi la conseguenza di una verità per quello che riguarda l'animo umano, ovviamente. Pensavo mentre parlavo all'inizio della costituzione dell'Egibus nel codice giustiniano, le pandette, VII secolo dopo Cristo, quando Giustiniano introduce qualcosa che oggi è la salvezza soprattutto di quelli che devono pagare multe, cioè il rispetto della forma come elemento essenziale del procedere giuridico, per cui anche attualmente in Italia il difetto di forma è un difetto insanabile che permette di andare al giudice di pace e non pagare le contravvenzioni. Però lui diceva che il rispetto formale andava accettato perché in fondo la forma è l'unica garanzia che possiamo scambiarci sulla onestà delle nostre intenzioni. Esatto. Cioè, quello che viene offerto formalmente, certo, si pensa, diciamo così, poi magari non corrisponde sempre a verità, però certo, è comunque una grande costruzione anche culturale questa. Ad esempio, quando noi ci sono i dibattiti sulle infedeltà, no? Cioè il dibattito, come dire, lo devo dire o non lo devo dire, devo rivelare quello che ho fatto. Ecco, c'è poi questa ansia di rivelazione per togliersi il senso di colpa, ma è un meccanismo estremamente egoistico. Cioè, delle volte dire qualche cosa di vero non vuol dire che dici qualche cosa di vero, usi una verità per creare dei meccanismi di protezione che riguardano te stesso. O di aggressione, forse. O di aggressione, sì. Oppure di delega all'altro di quelle che sono le conseguenze della tua azione, un meccanismo molto infantile, molto involuto, se vogliamo. Ma la nostra vita è ricca di questi esempi, sia di utilizzo della forma, sia di false verità. Signora, abbiamo un minuto per parlare del suo ultimo libro, L'età dell'incertezza, capire l'adolescenza per capire i nostri ragazzi. All'inizio del secolo un poeta francese, Paul Nisson, si suicidò lasciando un biglietto a 20 anni. Dice così: nessuno avrà più il diritto di dirmi che i 20 anni sono i più begli anni della vita. Dopo aver saltato, diciamo, l'età primeva, come diceva D'Annunzio, adesso ci stiamo ponendo il problema di sapere perché questa età comincia ad essere così, così problematica per noi? Sì, no, il libro è un libro positivo, pur se affronta tutti i grandi temi che uno si aspetta. Io parto un po' dalla storia e dalla collocazione sociale che l'adolescenza ha avuto nel corso della nostra storia. E sono andata a evidenziare quelli che sono alcuni paradigmi fondamentali, come i riti di passaggio, l'eroe romantico, tutta una serie di il mentore, cioè alcune figure che sono dei richiami a quella che è la collocazione dell'adolescenza che ha avuto nella storia e quello che si è privato, che non abbiamo più ai giorni nostri. tenendo presente che c'è un'adultità imbarazzante, cioè che non è sempre in grado di essere veramente adulta, ma che continua a rimanere adolescente, quindi diciamo per non proprio infantile. No, per non proprio infantile, quindi dell'adolescenza, dico, è la conclusione dell'infanzia, è la preparazione all'adultità, non c'è nulla di patologico, l'adolescente deve vivere i conflitti, le contrapposizioni, deve cercare la propria identità, semmai la critica è come l'adolescente oggi riesce a difendere la propria adolescenza, che gli viene parzialmente non riconosciuta, perlomeno gli viene riconosciuta se la patologicizziamo, cioè la cultura attuale ama vedere dell'adolescente solo la parte problematica, non questa parte meravigliosa che è la costruzione dei sogni, delle utopie, che poi è la possibilità di costruire un'idea personale di quello che dovrebbe essere o se potrà essere la tua vita. Bene, tutto questo in L'età dell'incertezza, capire l'adolescenza per capire i nostri ragazzi, Mondadori 2008, l'autrice Vera Slepoi, la nostra guida questa settimana. Grazie di cuore. Grazie a lei e a tutti voi. Grazie a Gloria Guerrera, grazie a Alessandro Chiappini, grazie a voi, a risentirci.